La prossima canzone io è la canzone di un cantautore che ci è molto caro, un cantautore che purtroppo è scomparso un po' di mesi fa. E noi questa sera vogliamo ricordare la sua persona per l'esempio che ci ha lasciato, oltre al ricordo di tutte le sue canzoni bellissime. Massimo è stato per tutto l'ambiente della destra radicale un esempio, continua ad esserlo, perché Massimo continua a vivere in queste canzoni che ci ha lasciato. Io proporrei un grande applauso per Massimo. Grazie.